creare e creare solo sconfessato. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Stato qui. Stazionare 1 e 1, ma così muove. 4 notte, sempre quelle notte, una decina. Senti, caro te, sempre buon moraio, stai facendo stamattina? Già. Senti, non hai trovato niente di fare stagione. Tu dovrai avuto anche questo problema adesso. Devo un po' mettere le cose a posto. No, adesso partiamo. Prossima settimana partiamo di brutto. Vai a carolineare. Aspetta. Partiamo di brutto, ma non mai staccato. Ehi, adesso che sta a fare la stagione? Da adesso. Ma fa carità, ma così. Sassaria. Mi ha detto che ha fatto in giro lineare. Spegni. Ando qua. È staccato, non c'è niente. No, proprio staccato. Dove dici che cosa che sa prendere? Arrivederci, Binario Decci, copiato Antonio Gatta.